Ciao a tutti. Allora, stasera vi presentiamo Gigi Prozzoni live dal Leoncavallo per una degustazione guidata. Questa degustazione esprimerà il concetto di terroir resistance che abbiamo cercato di spiegarvi durante la Terra Trema. Infatti ha scelto quattro vini diversi che per lui esprimono bene il concetto di terroir legato al vino. Per noi la Terra Trema invece vuole esprimere bene il concetto di terroir resistance più in generale, non solo sul vino ma su tutti i prodotti della terra e anche le persone umane che resistono nei propri territori e agiscono di conseguenza. Niente, vi lascio la parola a Gigi. E vi distribuiamo un altro bicchiere a test in modo tale da poter fare dei confronti per i due baroli e poi passeremo a versarvi il vino per la degustazione dopo la spiegazione.